Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e a tutti, martedì 24 agosto, buongiorno da Antonella Cortese e da Ignazio De Francesco che è qui con noi. Vi ricordiamo che siete su Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra il carcere e la città e che va in onda su Teletricolore, Lepida TV e Radio Città Fuggico. Oggi con Ignazio di che cosa si parla? Buongiorno, anzitutto buongiorno a te e a tutte e a tutti. Oggi vi propongo questo argomento, l'intervista rilasciata a Vita International da Luigi Pagano, che è stato per 16 anni al timone della casa circondariale milanese di San Vittore, poi a capo di tutti i penitenziari del Nord-Ovest e numero 2 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi uno che il carcere lo conosce bene, che ha fatto appena uscire il suo libro dal titolo Il direttore, 40 anni di lavoro in carcere, in tutto 304 pagine della Zolfo Editore. Ignazio, tornando un po' ai nostri momenti, ai nostri tempi, il Presidente del Consiglio ha fatto un'affermazione forte quando ha detto che, a proposito di quanto è avvenuto nel carcere di Santa Maria Capo Vetere, che le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato. Sì, esatto, ed è qui che parte l'intervista a Luigi Pagano, da questa affermazione. Luigi Pagano dice questo, una frase forte e molto giusta. Non dimentichiamo che abbiamo avuto 2 condanne consecutive della Corte europea, l'ultima nel 2013, in cui la Corte riconosceva un deficit sistemico dell'Italia. Ci diede un anno di tempo per intervenire con proposte e provvedimenti. Ci fu la proposizione della delega Orlando, ma poi tutto si interruppe con buona fede. Per questo è giusto che oggi finalmente si torni a prestare la giusta attenzione. Qui io sto ripetendo le parole dell'intervista di uno che il carcere che la conosce. Quindi Luigi Pagano ha detto così a Vita International. Ignazio, come ha giustamente detto la ministra Cartabia, non se ne esce se non c'è, cito le parole, una presa di carico collettiva del problema. E su questo Luigi Pagano conferma e aggiunge che il carcere in questi anni è stato lasciato alla solitudine dei detenuti e degli operatori, senza che l'opinione pubblica si interessasse al problema. Il carcere che si apre all'esterno, il carcere dove entrano i volontari, e che dici sono giustamente ricordati da Draghi, noi siamo volontari, ci fa un grande piacere questa cosa, ma sentiamo anche la responsabilità, dice Pagano, diventa un carcere trasparente, dove è difficile che poi avvengano episodi come quelli successi nel marzo 2020. 21 le carceri in rivolta dal Piemonte alla Sicilia, 13 vittime, 200 i feriti. Il carcere deve diventare comunità aperta all'esterno anche alle imprese, alle istituzioni locali. Così dice Luigi Pagano. La ministra della Giustizia ha accennato a 3 linee propositive. Innanzitutto ha parlato di edilizia carceraria, ma lo ha fatto in modo un po' diverso, un po' nuovo, dicendo nuove carcere e nuovi spazi non può significare solo posti letto. Continuando su quest'idea, su questo pensiero, Luigi Pagano aggiunge, leggo il virgolettato dell'intervista, dice il tema non è costruire nuovi edifici, ma anche cambiare la concezione dei luoghi che rendano possibile organizzare diversamente la vita del detenuto. Bisogna creare spazi fuori del reparto detentivo, in modo che consentano aperte le celle di organizzare la vita delle persone ristrette fuori dal reparto. Spazi che consentano di ospitare iniziative, specie se proposte dalla comunità esterna. Ecco, tutto questo oggi non sarebbe possibile. E lui dice, io ho vissuto a San Vittore, questo è un carcere che funzionava, diciamo, nel Medioevo, cioè un carcere di antico, ci sono legato, ma di antica concezione. Dice, Pagano, ascoltate bene, oggi è necessario non isolare, come si voleva un tempo, ma favorire la socializzazione, creare attività, occasioni di lavoro, di studio, di formazione. Tutto questo è possibile però se l'intera società farsi carico dei percorsi di pena e di reinserimento e se la politica per una volta non passerà ad altro mio commento, mi sembrano delle parole equilibratissime che danno a ognuno la loro responsabilità. Certo, l'amministrazione penitenziaria ha una responsabilità, il ministero ha una responsabilità, ma la società civile deve essere la prima che dice come c'è il diritto alla salute e un interesse della comunità, così anche che la persona detenuta, ecco, riemerga dal suo reato, che ritorni a una vita civile, è interesse della comunità. Se la società ti contraddice, evidentemente la politica in qualche modo si adegua. Benissimo, Ignazio. Vogliamo fermarci per un po' di musica? Sì, allora in tema con quello che abbiamo sentito, che sono parole pesanti come il piombo, ecco, Giorgio Gaber, La libertà. Ascoltiamolo. Non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. Nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è E dopo aver ascoltato la bellissima canzone di Giorgio Gaber, La libertà, continuiamo il nostro viaggio nelle città del mondo e oggi andiamo a Tunisi. E sapete che mi piace cominciare sempre con qualche riferimento letterario e adesso ve lo leggo. La mia prima libertà era quella di sognare, scrive Ali Becher. Giunsi a pensare che sognare significasse essere libero e che di conseguenza chi nega all'uomo la libertà di sognare gli nega di fatto la libertà, con il corollario che non si può togliere la libertà a colui che sogna. Quindi praticare la libertà e il sogno sono attività strettamente collegate. Ce lo ricorda proprio uno degli scrittori tunisini più noti all'estero, appunto Ali Becher. E però vi voglio dire giusto due cose sulla letteratura tunisina che fa un po' la parte della Cenerentola nel panorama letterario arabo-mediterraneo, eppure non ha nulla di invidiare gli altri in realtà. Non gode forse di nomi di spicco tradotti come l'algerino Albert Camus oppure l'egiziano premio Nobel di cui abbiamo già parlato Naguib Mahfouz o il libanese Elias Kouri, ma alle spalle una ricca e diversificata produzione transculturale e in questa fase, a 10 anni dalla rivoluzione, si presenta come più dinamica e sotto certi aspetti, diciamo, molto più prolifica. Ma parliamo della città adesso, di Tunisi, dopo che abbiamo fatto il Cairo, arriviamo a Tunisi. Sì, arriviamo a Tunisi, geolocalizziamolo intanto. La Tunisia, sapete che è tra l'Algeria e la Libia, abbaglia il Nord Africa con tutta la sua bellezza e la sua immensa cultura. Si va dal deserto agli scintillanti specchi d'acqua, passando poi per i suoi siti eccezionali. Sapete che Tunisi è la capitale amministrativa dello Stato, ovviamente, e mescola modernità e cultura antica. È una città storica, come ci stavamo dicendo, dove passato e presente si incontrano. Seduce anche con il suo fascino mediterraneo proprio a causa del suo passato storico, molto movimentato. La città di Tunisi, infatti, ha una identità cosmopolita perché fu controllata dai Fenici, dai Romani, Arabi, Ottomani, Spagnoli, Francesi e tedeschi, e presenta quindi una ricchezza culturale veramente unica. Proprio poi perché situata sulla costa mediterranea del paese tra Africa e Europa, gli arabi ci hanno visto l'opportunità di installarci una stazione commerciale già dal VII secolo, è da allora che iniziò la sua vera crescita. Però Ignazio, tu sicuramente ci sei stato a Tunisi e immagino quindi che tu abbia anche attraversato il cuore pulsante della città, che è appunto la Medina, che conserva il suo aspetto tradizionale da oltre 500 anni. Mi immagino che tu abbia visitato anche i numerosi monumenti che ci sono, tipo la grande moschea Zitouna, che ha per lungo tempo contribuito alla crescita religiosa e culturale dei suoi abitanti, oppure che tu abbia visitato il souk, diviso per mestieri e per prodotti artigianali. Da qui dipartono le strade che conducono agli antichi palazzi e alle vecchie dimore trasformate oggi in centri d'esposizione o in ristoranti. E poi c'è la città moderna con la sua architettura e il proprio rigore funzionale. E poi attraverso gli ampi viali la metropolitana conduce fino al Museo del Bardo, che ospita la più importante collezione del mondo di mosaici di epoca romana. Merita naturalmente una certa attenzione anche la Cattedrale di Tunisi, il Teatro Municipale e le Gallerie d'Arte. Ignazio, ma a te Tunisi che cosa ha lasciato nel cuore? Allora, devo confessare che non sono stato a Tunisi. Questa è la mia grande, insomma, una cosa che manca alla lista. La mia area di conoscenza è lo Sham, quello che si chiama lo Sham, quindi Libano, Palestina, ovviamente, e poi Israele, ovviamente, e poi ancora la Giordania, e poi l'Egitto, per finire con l'Egitto, la Siria, ovviamente l'Egitto. Tunisi mi ha lasciato nel cuore quello che mi hanno raccontato le persone di origine e nazionalità tunisina che ho conosciuto nel carcere. Io Tunisi l'ho conosciuta, quegli angoli che tu descrivi, attraverso tanti raccontini di persone che ho conosciuto in carcere. Rimane per loro come un sogno la loro città e insieme il dolore per vedere questa crisi economica, mancanza di lavoro, da cui non sembra che si esca. Ecco, quindi è un agrodolce. Benissimo, ok, grazie Ignazio. E io intanto però vorrei dedicare una canzone a chi ci ha sostenuto fino adesso. Quindi per il nostro premio del crowdfunding, una canzone dedicata a te, vorrei ringraziare e dedicare Ella Fitzgerald e Night in Tunisia del 1961 a Patrizia Gulinelli, Alberto Melloni, Anna Rosa Valencic, Don Ferdinando Colombo e a Valentina Ciardelli. Ascoltiamola! The moon is the same above you, a glow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same up above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Lasciamo la bellissima canzone di Ella Fitzgerald e diamo la parola alla nostra Caterina Bombarda, che intervista Franco Milone, un uomo che ha conosciuto il carcere e che ora collabora da esterno Trasporto e Teatro. A te Caterina. Bentornati su Liberi Dentro e Duradio TV. Oggi abbiamo come ospite Franco Milone, classe 1948, in collegamento da Milano presso il Centro culturale, sportivo e di studio a Steria, dove da tanti anni Franco collabora facendo accompagnatore sportivo, manutentore, attività teatrali e tantissime altre cose. Buongiorno Franco e benvenuto su Liberi Dentro. Buongiorno anche a te Caterina e buongiorno agli ascoltatori. Allora, in queste puntate estive di Liberi Dentro stiamo ripercorrendo la storia di alcune persone che vivono nella nostra società e che hanno fatto esperienza di carcere. Siamo partiti da Franco Bonisoli, ex brigatista, ma anche abbiamo toccato la storia di Giorgio Bazzega, vittima della lotta armata, e ora c'è la tua storia, Franco. Tu sei ad oggi una persona ricchissima di interesse, hai anche scoperto una passione per il teatro e scrivi drammaturgie. Ma prima di arrivare a tutto questo, sei stato anche in passato, in giovinezza, un ex detenuto. Usando le tue parole, un detenuto anomalo. Raccontaci come mai e come hai incontrato il carcere. Ho incontrato in carcere in silenzio, cioè per la mia molta curiosità della vita. Gli oggetti che vedevo, le macchine, i vestiti che la gente aveva, e io non avevo, ma dico, ma perché io non la posso avere? Ma certo non mi confidavo, in queste mie curiosità non mi confidavo con nessuno, pur avendo altri quattro fratelli, eravamo in cinque, io ero la cosiddetta pecora nera. Tutto è iniziato, io parlo di curiosità perché ero un po' un bulletto, ma un bulletto buono, uno che faceva le stupidate senza sapere che cosa andavo incontro. È così che iniziano le cose anche negative, per lo più negative. E infatti ogni volta che facevo una marachella, tra virgolette, la prendevo come una marachella e non un furto. Non avevo, torno a ripetere, non avevo il senso della giustizia sociale o della giustizia di vita. E non avevo nessuno da dire, ma perché facendo questo è giusto oppure è sbagliato? No, forse ero un rivoluzionario senza saperlo, ma un rivoluzionario che si faceva del danno a se stesso, perché iniziando così, facendo, rompendo un vetro, suonando un campanello e scappando, rubando una mela in un fruttivendolo, correndo, facendo queste stupidate, man mano andavi incontro e ti rovinavi la vita. Tutte queste cose ti portano ad essere, a isolarti e cominciare a pensare che tu sei il furbo della situazione, non il debole. Invece in realtà ciò che pensavi di essere un leone, tu eri solo una pecora, un agnello smarrito che man mano andavi nel burrone, un burrone che poi alla fine la vita mi ha portato veramente a cadere. E questo cadere però non è che quando mi rialzavo sentivo male, ma perché non avevo coscienza di ciò che facevo e non potevo neanche confidarlo a nessuno. Quanti ragazzi, credo, e io mi auguro che non percorrino, si trovano in carcere, si trovano a dover andare, io sono andato in beccaria, che ero un bambino, si può dire, 14 anni, 15 anni. Poi sono andato due volte al beccaria, poi a 18 anni mi trovo a San Vittore. Credetemi, un trauma unico. Ma non tanto, pensando a quello che dicevano che il carcere c'è violenza, è qui, è là. Beh, io ho trovato finalmente a 18 anni qualcuno a cui parlare dei miei problemi della mia vita. Certo, anche lì il carcere, cercano tutti noi, i giovani, di prenderli, cercare di dargli dei consigli negativi, perché è chiaro, è una lotta, il carcere è una lotta di vita negativa, ma se non stai attento, se non hai la forza di capire questo, cadi. Grazie Franco, questa storia ti ha vissuto in qualche modo, e a volte quando si parla del carcere all'esterno, naturalmente, si usano espressioni molto infelici, come per esempio carcere alla discarica della società, il luogo da chiudere a chiave e poi buttarla via, il luogo degli ultimi degli ultimi. Ma quando tu hai toccato il carcere per la prima volta, praticamente 50 anni fa, che impressioni ne hai avuto? Che cosa ti ha colpito? Guarda, mi ha colpito la solidarietà, il calore che avevo nel dire: ragazzo, hai bisogno di qualcosa, vuoi le sigarette? Io mi ricordo che c'erano le Alfa, quelle nazionali, i soldi non ce n'erano molti, salvo i cosiddetti, c'erano alcuni che magari avevano fatto qualche rapina, qualche furto più grosso e avevano qualche soldo, oppure erano aiutati dall'esterno, perché principalmente gli affetti, la famiglia, è quello che tu a 18 anni chiami ancora la mamma, dove sei mamma? La chiedi come la stai facendo soffrire. Non pensi a piangere te, pensi il pianto che tu hai dato alla tua famiglia, lo pensi sempre dopo. E lì ho trovato persone, dai, io non avevo carta e lettera, busta, mi hanno dato una busta, una lettera e la penna per scrivere subito a casa. Me lo ricordo benissimo. Anche se volevo le sigarette, le nazionali, un'Alfa. Insomma, inizialmente la cosa bella che ho avuto è quella: vuoi scrivere a casa? Questa violenza del carcere, non certo che io mi sono trovato bene, perché il carcere era brutto come ambiente, come struttura, rumori. Poi c'era gente anche, certo c'erano anche le violenze lì, a volte litigavano tra loro perché c'erano interessi loro, magari il carcere spesso se si incontrano è quella che magari erano cose esterne, erano solo un attimo messe da parte, e in carcere ci si trova in cortile e il duello, così definiamo le cose sospese, e spesso ci sono le guerre sospese, c'erano bande, non associazioni, ma bande che una si mettevano quello più forte o quello più violento. Ma in realtà è la stessa violenza che c'era fuori. Non cambiava. Non è che il carcere è al di fuori. Il carcere è società. Il carcere è la stessa violenza che c'era fuori. E magari la vivi dentro. È il quartiere, specialmente San Vittore. Perché inizialmente, in quegli anni lì, io ho conosciuto solo San Vittore, salvo nell'ultima condanna di 20 anni che ho preso. E negli anni lì, in quegli anni lì, io ho avuto il rapporto, non che il carcere era fuori, il carcere era un posto dove stavi isolato, ma nello stesso tempo c'era il rumore. I muri avevano l'orecchio. Cosa si intende? Che tutte... Tutti sapevano di tutto, era come un tantam. Noi sapevamo le notizie esterne prima ancora che le stesse arrivavano. Ecco, e dicevano i muri dall'orecchio, oppure morte bianca. Morte bianca, che cosa voleva? Io feci la domanda, cos'è questa morte bianca? E qua non puoi fare niente, tu è inutile, non puoi aiutare i tuoi, non puoi, anzi, verranno a trovarti, però tu sei qui. Potresti fare tante cose, non puoi fare nulla. Poi è chiaro che allora non è che studiare, sì, forse c'era qualcuno che magari qualche libro, ma era scomodo perché non c'erano le comodità, tra virgolette, di oggi. Franco, è stato uno spaccato di vita e anche tante immagini ci hai dato, i muri dall'orecchio, queste morti bianche. Io invito i nostri ascoltatori a scriverci, liberidentro@gmail.com, perché scrivendoci magari possono farti anche delle domande che io ti girerò. E intanto lancio un brano musicale, abbiamo Battiato con la cura e noi ci rivediamo domani. Ciao Franco. Ciao, grazie. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie.